24 mattino. 8 e 18 minuti, cari ascoltatori, dopo questa dettagliata serie di informazioni sull'andamento del traffico nella mattinata di oggi, ci sono una serie di problemi in molti punti, evidentemente. È il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Mi fai troppo simpatico, la dettagliatissima, persino lo sciopero dei treni francesi. Adesso mancava. Sappiamo tutto. Ecco. Deborah Rosciari, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Anche oggi è un tema un po' complesso, forse, però insomma, basta dire la parola conciliazione. Esatto. Però parliamo di una delle più grandi aziende fornitrici di servizi in Italia, quindi chi non ha avuto problemi con l'Enel? Esatto. Io, per esempio, ecco. Credo. Forse ah sì, infatti. Un caso, anch'io insomma. Devo dire di non essere mai incappata, forse perché a Milano mi eroga i servizi dell'elettricità e del gas un'altra azienda. Esatto, quindi benissimo. Noi a Milano siamo serviti, a meno che non abbiamo aderito al mercato libero, abbiamo cambiato nel corso degli ultimi 2 anni fornitore, ma insomma queste sono delle ipotesi che non ci interessano questa mattina. E allora, di che cosa parliamo oggi? Bollette troppo elevate, il contatore funziona male, la fornitura di energia vi è stata sospesa improvvisamente senza ragioni, protestare o fare ricorso contro la compagnia che ci eroga questi servizi è sempre possibile, però da oggi tutti i clienti di Enel, stiamo parlando di qualcosa come di 30 milioni di utenti, sia quelli aderenti al mercato libero, sia quelli al servizio di maggior tutela, poi magari se abbiamo tempo vi spieghiamo anche la differenza, hanno uno strumento in più che è quello della conciliazione online a costo zero, che consiste nella possibilità di chiudere il contenzioso senza dover ricorrere ad altre strade come per esempio la giustizia ordinaria. Questa iniziativa viene presentata proprio questa mattina a Roma, fra qualche ora, oltre ad alcuni dei vertici Enel ci saranno anche i presidenti di 3 associazioni dei consumatori. Buongiorno e grazie per essere con noi al dottor Gianfilippo Mancini, direttore divisione mercato di Enel. Buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, chi può utilizzare questa strada? Come mai l'avete attivata? So che peraltro questa istituzionalizzazione della conciliazione per Enel fa seguito ad una sperimentazione che era già stata avviata in alcune zone d'Italia. Sì, noi siamo partiti in Piemonte, siamo partiti dal 2003 con questa iniziativa e anche in questo caso siamo stati i primi a avviarla in Europa e in Italia. Oggi la estendiamo a tutti i nostri clienti, come lei ha giustamente osservato prima, quindi sia clienti elettrici che clienti gas. Questo consente a 30 milioni di clienti di poter avere un servizio aggiuntivo rispetto a quelli che noi già ci impegniamo ad offrire quotidianamente sul territorio in termini di punti di contatto per la nostra clientela. Pensiamo in termini di contatto fisico, abbiamo 1200 punti sul territorio nazionale, oppure di contatto telefonico con 3000 operatori dedicati o anche attraverso altri canali come il web, l'SMS o la posta. Questo però è uno strumento aggiuntivo che crediamo importante, anche perché è condiviso con tutte le principali associazioni dei consumatori italiane, sono 17 le firmatarie che avremo tra un'ora qui insieme a noi per firmare questo importante accordo. E appunto sarà uno strumento in più che può consentire di risolvere in maniera rapida e non costosa le eventuali problematiche, tra l'altro parliamo delle principali problematiche. Ecco, infatti ci faccia un po' qualche esempio, dottor Mancini, tanto per farlo capire, magari qualche ascoltatore ha già qualche problema da segnalarvi, quindi quale strada nuova ha da oggi in poi? Sì. Ma guardi, le tematiche, le casistiche vanno da importi delle bollette anomali rispetto a quelli storici normali, eventuali problemi di doppia fatturazione oppure valutazione e determinazione dei consumi presunti in acconto, possibilità di rateizzare le bollette in caso di importi anomali, eventuali problematiche di riduzione di potenza o di distacco conseguenti alla morosità da parte dei clienti, o ricostruzione dei consumi dovuti a eventuali problematiche di malfunzionamento del contatore. Queste sono le principali problematiche e la modalità è abbastanza semplice perché online il consumatore sostanzialmente deve attivare il reclamo e recarsi all'associazione dei consumatori. Quindi deve appoggiarsi all'associazione dei consumatori per avviare, come dire, l'istruttoria, la pratica. Esattamente, sì. A una delle 17 associazioni di consumatori firmatarie dell'accordo, che ricordo sono tutte quelle che aderiscono al Consiglio Nazionale Consumatori Utenti. Esatto. Sì. Questo può essere fatto sia fisicamente che online. Dopodiché l'associazione dei consumatori, attraverso del personale formato appositamente, è in grado di attivare la procedura online di conciliazione A questo punto cosa succede? Che i conciliatori dell'Associazione dei Consumatori e di Enel, persone appunto che in questi anni abbiamo istruito e formato appositamente per poter risolvere queste problematiche, possono addivenire a una soluzione, a un accordo. Nel caso in cui questo avvenga, l'accordo viene proposto al consumatore, che è libero di poter decidere se aderire a questo accordo e risolvere in questo modo il problema, oppure continuare a seguire eventuali altre strade. D'altronde, come abbiamo avuto modo di spiegare in altre circostanze, la strada della conciliazione è proprio questa, quella di far trovare un accordo, di far parlare le parti, di far dialogare le parti in conflitto e quindi giungere ad un accordo che sia naturalmente soddisfacente per entrambe le parti. Tra l'altro si tratta di uno strumento che è già utilizzato in molti altri settori nel nostro paese. Nel 2007, ho l'ultima statistica ufficiale relativa a questo anno, le procedure conciliative sono state numerosissime, oltre 35.000 nel settore bancario, 11.000 nella telefonia e nelle poste, oltre 500, questo è un numero che mi sembra abbastanza contenuto, per fortuna nell'RC auto, anche se i risultati, lamentano le associazioni dei consumatori, non sono sempre stati soddisfacenti, perché, dottor Mancini, ovviamente vorremmo sempre servizi all'altezza della situazione, quindi un atteggiamento anche massimamente trasparente da parte delle società che erogano questi servizi, eppure qualche volta qualche problema si può verificare. Il fatto di utilizzare l'Associazione dei Consumatori quindi velocizza i tempi di chiusura della pratica? Ma io credo proprio di sì. Il fatto che sia una procedura online e che venga veicolata attraverso l'Associazione dei Consumatori garantisce rapidità e trasparenza alla soluzione di queste problematiche. Ricordo ancora una volta che questo è uno degli strumenti che sono a disposizione da parte di Enel, per esempio chiamando i contact center all'800 900 800 nel caso del servizio della maggior tutela, oppure all'800 900 860 nel caso del mercato libero, sia per l'elettricità che per il gas, si può trovare una risposta efficace normalmente anche attraverso questi canali. Benissimo, io volevo ricordare che sul sito dell'Enel c'è la guida alla conciliazione già pubblicata con tutti i dettagli per poter utilizzare questa strada qualora non fossimo soddisfatti di un determinato servizio che la società ci eroga. Dottor Mancini, io devo salutarla, ma in 10 secondi naturalmente so che lei avrà l'onestà intellettuale per dircelo senza problemi. Qual è il problema più diffuso con i vostri utenti, quello che vi ha dato anche là per partire con un'iniziativa così istituzionale, come vi dicevo prima, con le associazioni dei consumatori? Ma guardi, normalmente il problema più significativo è dovuto alle bollette, cioè l'interpretazione delle bollette, soprattutto in un mondo dove la regolazione è molto complicata e dove i prezzi dei combustibili e quindi dell'elettricità sono molto variabili nel tempo, a volte rende problematico capire e riuscire a trovare delle soluzioni rapide alle letture delle bollette. Questo credo che sia di gran lunga l'elemento più significativo. Poi gli altri che ho elencato prima, se sommati, compongono la quasi totalità. Benissimo. Delle problematiche. Ci risentiremo presto, così ci racconterà come è andata. Ovviamente ce lo faremo raccontare anche dalle associazioni dei consumatori che sono parte attiva in questa iniziativa. Dottor Mancini, buon lavoro e a presto. Anche voi, grazie. Grazie. Alessio. Insomma, siamo sempre più cittadini consumatori, dobbiamo vivere sempre di più in questo ruolo e organizzarci. Però anche orientarci, insomma, nella giungla delle opportunità. Per difenderci, tutelarci è difficilissimo, siamo qua per questo, anche per spiegarlo. E oggi alle 12 invece di cosa ci parli? Oggi parliamo di impianto elettrico della nostra casa, di elettrodomestici sicuri, come fare anche per organizzarci al meglio con un tecnico preparato su questa nostra organizzazione domestica. Allora, appuntamento alle 12 con Salva Danaio. Grazie Deborah Rosciani. Minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. Riprendiamo con le notizie di oggi. In primo piano, l'allarme dei vescovi italiani sui licenziamenti durante questo periodo di crisi. La Conferenza Episcopale Italiana chiede più tutele per chi lavora. E poi sul fronte nucleare, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha condannato duramente la Corea del Nord per il suo test atomico e per il lancio di missili avvenuto ieri. Il dossier Fiat Opel prosegue in Germania, il lavoro del governo tedesco che sta vagliando tutte le ipotesi. La stampa tedesca riporta le affermazioni del ministro dell'economia che continua a ritenere insufficienti tutte e tre le ipotesi per Opel. Oggi però ci sarà un incontro decisivo tra la Merkel e Marchionne. Sul caso Noemi, Berlusconi interviene sul Libero, sul quotidiano Libero, dice: dietro agli attacchi contro di me c'è il gruppo L'Espresso di De Benedetti. E poi per il calcio, ieri sera in tarda serata è arrivata la conferma all'Inter, resta Mourinho, il contratto è stato prolungato fino al 30 giugno del 2012. 349 238 6666 per i vostri SMS. C'è qualcuno che ci chiede se quello di cui ci siamo occupati, cioè la procedura di conciliazione dell'Enel, vale anche per le imprese. Probabilmente no, ci informeremo meglio, ma quello che ci ha detto Deborah Rosciani poco fa è che attualmente vale solo per l'uso domestico e condominiale, dunque le imprese per ora devono aspettare a poter adire a questa procedura di conciliazione di cui abbiamo parlato nello spazio economico di questa mattina con Deborah Rosciani, che riguardava l'Enel. Adesso invece vogliamo parlare di una importante riforma e vorrei sentire subito un contributo audio. No, non è possibile sentire il contributo audio. L'importante riforma di cui parliamo è la riduzione del numero dei parlamentari. Sì, possiamo sentire questo contributo che risale a qualche mese fa. Quando in Italia si vararono le regioni era indiscusso il fatto che si dovessero anche abrogare le province, poi non se ne è fatto niente, credo che si debba andare in questa direzione e qui colgo l'occasione per dire che, visto che l'abrogazione delle principali province, delle aree metropolitane è anche nel programma della sinistra, io credo che su questo potremmo collaborare per riuscire a togliere di mezzo un cespite di costo notevolissimo. Era il 6 maggio dell'anno scorso, il presidente del Consiglio Berlusconi annunciava la possibilità di andare avanti con una riforma radicale, l'abolizione delle province, una cosa chiesta da più parti, sta nel programma della destra e della sinistra, però adesso dopo un anno dalle elezioni, dall'insediamento del governo, di questa iniziativa non si sa più molto. Adesso invece si parla di un'altra possibile riforma altrettanto popolare, altrettanto drastica, altrettanto forse ormai richiesta un po' da tutte le parti, la riduzione del numero dei parlamentari. Ha detto Berlusconi: faccio una legge di iniziativa popolare per portarli a 300 deputati e 150 senatori. L'inizio simbolico della nuova Italia, ha detto il ministro Brunetta. Cominciamo a raccogliere le firme già in campagna elettorale, ha aggiunto il ministro della difesa La Russa. Saluto subito Stefano Ceccanti, parlamentare del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno. Senatore e anche docente di diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma. E proprio come tecnico della materia, le vorrei chiedere subito che differenza c'è, perché a me ha colpito molto questo aspetto della legge di iniziativa popolare. Che differenza c'è tra una legge qualunque e una legge di iniziativa popolare? Ma guardi, il disegno di legge di iniziativa popolare significa andare per le strade e raccogliere 50.000 firme di cittadini che hanno diritto al voto per la Camera dei Deputati e mandare questo progetto in Parlamento. Questo è, mentre viceversa un disegno di legge di uno o più parlamentari arriva direttamente in Parlamento. Quindi la cosa è un po' paradossale, perché in genere questo strumento era stato pensato soprattutto o per minoranze non parlamentarizzate, per gruppi che non hanno rappresentanza, cioè per chi sta fuori dal Parlamento, insomma, e non ha altri metodi per magari per minoranze parlamentari che vogliono rafforzare l'iniziativa dimostrando di essere forti nel paese. Non era stato pensato per chi ha la maggioranza in Parlamento, perché chi ha la maggioranza in Parlamento deposita un progetto di legge e lo vota. Tanto c'è chi oggi sulla stampa di oggi, su Repubblica in particolare, Sebastiano Messina ricorda che c'è stata una unica legge approvata di iniziativa popolare in Italia dal 48 a questa parte. Di leggi invece depositate in Parlamento ce ne sono già un po', e una tra l'altro porta la firma di Andrea Pastore, senatore del PDL, buongiorno, è qui con noi. Buongiorno. Che è anche presidente della commissione parlamentare, giusto appunto per la semplificazione della legislazione, anche se qua il tema è laterale. A lei vorrei chiedere, sempre sul punto iniziale, poi entriamo nel merito anche con Ceccanti naturalmente, della legge di iniziativa popolare. A lei che effetto ha fatto sentire Berlusconi, forse anche inaspettatamente, così all'improvviso, uscire con questa proposta? Lei che qualche mese fa, ora non ricordo esattamente quando, ha depositato una legge magari un po' più complessa, dove però c'è il tema della riduzione del numero dei parlamentari. Mi domando, col Presidente del Consiglio non vi parlate, non vi sentite? No, oppure... guardi, io voglio fare proprio una riflessione preliminare. Queste questioni, soppressione di province, riduzione del numero dei parlamentari, che sono nell'agenda del PDL, hanno però bisogno di una spinta particolare, perché incidono su quella che è quello cosiddetto ceto politico, che fa molte resistenze a che questi obiettivi vengano raggiunti. I capponi allora non possono fare Natale prima del tempo, ha detto Berlusconi. Ci fa molte resistenze, poi i giochi parlamentari, i ritardi, le combine, eccetera, possono portare a non produrre nessun risultato. Quindi la spinta, diciamo, dell'iniziativa popolare servirebbe per fissare un punto, che c'è veramente un consenso forte, per cui non ci si limita alle 50.000 firme, insomma occorrerebbe una mobilitazione tale da far sentire su tutte le forze politiche in campo, del centro-destra e del centro-sinistra, che c'è una volontà di arrivare a queste semplificazioni. Però semplificazioni che dovranno essere viste in un contesto più ampio, perché ridurre per esempio i parlamentari senza modificare le funzioni di Camera e Senato, altro punto dolente nella questione delle attribuzioni dei parlamentari, mi sembrerebbe superfluo. Cioè, ecco, un attimo solo, Pastore, perché anche su questo arriviamo subito, però siccome non abbiamo chiesto a Ceccanti del PD sul merito della proposta della riduzione del numero dei parlamentari, vorrei subito sentirlo invece. Voi avete anche voi depositato già delle proposte di legge, c'è quella di Zanda, c'è la bozza Violante, nel caso questa proposta dovesse insomma arrivare all'ordine del giorno del Parlamento, il PD come si comporterebbe? Ceccanti. Anche una mia, che questo stava nel programma elettorale del Partito Democratico. Certo, però il problema su questo l'ultimo passaggio che ha fatto Pastore è molto corretto, cioè il problema è quello delle funzioni. Noi eleggiamo qualcuno per fare che cosa esattamente? Perché 1.000 parlamentari sono troppi, soprattutto per il fatto che le due Camere fanno lo stesso lavoro, rappresentano la stessa cosa, cioè i cittadini elettori. Mentre invece il ragionamento sulla riduzione è legato anche all'idea di due Camere che fanno cose diverse, l'una che è una Camera rappresentativa della sovranità nazionale, popolare, e l'altra invece che rappresenta le realtà territoriali. Cioè va letta in questa chiave il ragionamento, perché altrimenti sembra solo un problema di decimazione. Ceccanti, in questo senso lei condivide l'appello che ha fatto ieri il Presidente della Camera Fini, che ha detto, ha ricordato anche lui, non sia una butade elettorale, visto che tra due settimane si vota, e soprattutto si intervenga sul bicameralismo perfetto e su una serie di riforme collaterali, è questo il senso? Sì, cioè bisogna avere un disegno peraltro che non nasce oggi, ma che completa una parte delle riforme che già abbiamo fatto, come quella del titolo quinto della Costituzione, di cui questo sarebbe in parte anche il coronamento. Pastore, l'avevo interrotta, Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione legislativa e parlamentare del PDL, lei diceva bisogna allargare il tiro, tra l'altro Berlusconi ha detto sempre in quell'intervento qualche giorno fa all'Assemblea di Confindustria, i parlamentari insomma diciamo lo schiacciano il pulsante secondo quello che dicono i capigruppo, qualcuno dirà che io in spregio il Parlamento, ma è così. Allora la riforma vera non è quella di ridurre il numero dei parlamentari, ma è quella di per esempio cambiare i regolamenti parlamentari o altre cose? Anche, però siccome i regolamenti devono percorrere i binari fissati dalla Costituzione, se la Costituzione prevede particolari funzioni oggi diciamo a controproducenti, perché in effetti la stessa legge che si voti Camera e Senato nello stesso testo allunga l'iter legislativo, prolunga l'iter legislativo e spesso si arriva anche a un prodotto magari di compromesso, ancorché ci siano le stesse maggioranze alla Camera e al Senato, questo per esempio è un dato che è contenuto nella Costituzione, quindi dobbiamo modificarla, dobbiamo specializzare le Camere, prevedendo in una Camera la funzione politica, naturalmente ridotta il numero dei componenti, e nell'altra, il Senato, la funzione di Camera rappresentativa del territorio, con particolari attribuzioni diverse dall'altra. Quindi in questo contesto, oggi come oggi, i regolamenti possono fare qualcosa, però non possono risolvere tutti i problemi, perché bisogna intervenire sul testo costituzionale. Le ricordo che noi la riforma l'abbiamo presentata all'elettorato, l'abbiamo approvata nel Parlamento. Vabbè, bocciata poi dal referendum, sì. Sì, quelli che sono stati definiti simpaticamente, senza alcuna volontà di offesa, come i capponi di Natale, in quell'occasione hanno fatto il loro dovere, perché questo sarebbe... in quella riforma c'è la riduzione del numero dei parlamentari. Sì, però questo, mi scusi Pastore, sarebbe un motivo per non ricorrere al popolo, visto che il popolo una riforma di quel tipo, anche se era tutta un'altra cosa, l'aveva bocciata. Lei però parlava di una spinta particolare necessaria per dare forza a questo progetto. Ieri però il ministro Bossi ha detto, insomma, non capisco Berlusconi dove vuole andare con la legge di iniziativa popolare. Lui è al governo, lui ha la maggioranza parlamentare, lui può fare i decreti legge, può fare quello che vuole. Beh, no, questo è fino a un certo punto, perché in materia costituzionale il governo non può intervenire fino a un certo punto, come proposta. Anche la disciplina di coalizione vale fino a un certo limite, ci sono delle opzioni che sono rimesse anche alla libera scelta del parlamentare. Insomma, si tratta di questioni fondanti della Repubblica, quindi se sulle linee generali vi è un impegno nei confronti dell'elettorato, un impegno di programma, ma poi sui dettagli no, e siccome nei dettagli si nascondono poi le insidie, è opportuno che ci sia una spinta ulteriore rispetto a quella già data dalla volontà politica di fare una riforma. La spinta della mobilitazione tra virgolette popolare può essere una spinta che aiuti questo percorso. Io non la vedo in antitesi al percorso parlamentare. Ceccanti, la vedo come sì, iniziativa a sostegno del percorso parlamentare. Chiaro, grazie Pastore. Ceccanti del PD, voi spesso dite che Berlusconi fa uso del populismo. Questa volta lei crede a una particolare spinta per dare forza a questa riforma che credo che quasi tutti i cittadini, insomma non c'è partito che non ha depositato una proposta di legge in questo senso. Secondo lei c'è il clima un po' per arrivare a questa riforma in tempi, non dico brevi, ma... Noi non abbiamo bisogno dello strumento di iniziativa popolare, perché noi sappiamo già che un progetto di riforma di istruzioni che contempli un certo sfoltimento del numero dei parlamentari avrebbe già a priori il consenso popolare, quindi non è che dobbiamo andare a certificare una cosa che sappiamo che già esiste. Questo è il punto fondamentale. L'altro punto è questo: secondo me, se noi vogliamo creare un clima favorevole a questo tipo di riforme, dobbiamo evitare di brandirlo in modo demagogico, oppure di brandire una parte del ceto politico che pensa di essere al di fuori del ceto politico. Cioè Berlusconi è da 15 anni che fa il politico a tempo pieno, tutti noi vogliamo riformarlo essendo all'interno del ceto politico, ma noi facciamo politica. Non è che lui, riflettendo passivamente ciò che dicono i cittadini, si pone al di fuori e fuori dalle contraddizioni del sistema politico. Questo modo di porsi è un modo che crea problemi, che crea tensioni in più per approvare riforme condivise. Grazie, ci fermiamo qua. Grazie Stefano Ceccanti e Andrea Pastore. Speriamo che l'iniziativa di ridurre e cambiare le funzioni dei parlamentari per una maggiore efficienza del Parlamento non faccia la fine dell'abolizione delle province, di cui si parlava, erano tutti d'accordo prima delle elezioni, poi non se ne parla più. Grazie. 8:49 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Parliamo di università. Il ministro Gelmini ha annunciato per il 6 giugno una riforma. Uno dei punti all'ordine del giorno è la semplificazione, la riduzione soprattutto del numero dei corsi universitari. Ce ne sono 5.879 in Italia, questo è il numero delle lauree calcolando vecchio e nuovo ordinamento. Ci sono poi 767 corsi con meno di 10 immatricolati e questo il punto su cui si insiste. Il governo punta a ridurre entro il 2010 del 20% il numero dei corsi di laurea, considerando soprattutto questi corsi dove ci sono pochissimi studenti iscritti. Nei giornali di questi giorni ci sono vari esempi, insomma, si va dalla trofeistica, lo studio dei trofei di caccia, al paesaggio, al fitness, razze canine, scienze equine, dove si studiano le scienze cognitive, il benessere del cavallo, la scienza del latte, insomma ce n'è per tutti i gusti, forse un po' troppo. È passato già il principio che una parte dei fondi che il governo ogni anno dà alle università vada a quelle università che hanno saputo riorganizzare un po' l'offerta didattica. Uno dei più attivi su questo fronte è Luigi Frati, rettore dell'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno, è qui con noi. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Prima cosa che le vorrei chiedere è proprio questo: restiamo un po' anche sull'assurdità di certi corsi universitari, poi mi spiegherà anche perché sono nati. Quanti e quali corsi voi avete abolito e perché? Ma senta, io ho utilizzato un metodo molto semplice: ripensare i corsi in funzione degli studenti invece che dei professori. Cioè, domandarmi, se io avessi un figlio che si deve iscrivere all'università, lo farei iscrivere a quel corso il quale l'anno passato, 3 anni fa, aveva 20 studenti, l'anno dopo 15 e poi ancora 10? Cioè che gli studenti hanno dimostrato con il passaparola di non gradire. La mia risposta è stata no, lo aboliamo, punto e basta, senza fare tante storie. Anche perché in alcuni casi, le faccio un esempio, c'è un corso di laurea di ingegneria civile che ha grande successo, 200 iscritti, c'è un altro, ingegneria dei trasporti, 20, 15, 10, e poiché stanno nella stessa classe, cioè il titolo che danno poi alla fine sul mercato è la stessa cosa, ma perché non fare una laurea unica ingegneria civile delle infrastrutture dei trasporti, di modo tale che uno studente abbia una preparazione che gli consenta poi di andare nel mondo del lavoro senza essere settorializzato prima in modo così osceno? Questo è il punto della vicenda, e lo stesso così con altri corsi di laurea. Cioè, per capirsi, al di là del giustissimo impulso che vuol dare il ministro Gelmini, che intelligentemente vi ha messo anche delle risorse, cioè chi è più virtuoso poi do qualche soldo in più. Sì. Nella realtà già i rettori potrebbero fare questo se dessero retta, diciamo, all'interesse degli studenti invece che a quello dei professori. Io ho una particolarità, io sono stato eletto di recente e ho avuto l'80% dei voti degli studenti, il 70% del personale tecnico amministrativo, solo il 53% dei professori, dico solo perché anche lì ero maggioranza assoluta, però per capirsi mi sento un rettore degli studenti e quindi un rettore che sa che il futuro dell'università è quello. Senta, Frati, una cosa le voglio chiedere però, perché al di là dell'effetto caos che possono creare i 5.879 corsi di laurea in molti, moltissimi, piccolissimi mi corsi, però un'osservazione. No, aspetti, prima le faccio prima la domanda. Quando poi c'è stato il nuovo ordinamento saranno cresciuti per quello, ma al di là dell'effetto di caos che questo crea e della riduzione poi del numero, eccetera eccetera, quanto pensa lei di risparmiare? Perché insomma il numero dei corsi è anche fumo negli occhi, ma il problema è un'università più razionale, più efficiente, è un'università che sa risparmiare. Voi quanto pensate di risparmiare da questi tagli? Ma lei pensi solo una cosa, io avevo un bilancio preventivo delle nel 2008 che si pensava in passivo per 49 milioni di euro, cioè un bel passivo. Bene, con un po' di accortezza, un po' di tagli, il passivo in realtà sarà di 13 milioni di euro, cioè molto più basso, fra l'altro riassorbito, il bilancio lo chiudiamo in pareggio perché abbiamo delle risorse tecniche per poterlo fare. Quindi, come dire, cioè da 49 a 13 milioni, è un bel passaggio. Un bel passaggio. Quindi io penso che proseguendo in questa maniera porto rapidamente il bilancio in pareggio, se non in attivo, e questo significa investire di più in ricerca, in infrastrutture, cioè avere un'università migliore anche sul piano della fruibilità visibile, per capirsi. Chiaro. Rettore Frati, un'altra cosa le vorrei chiedere, perché è una curiosità. Siccome la sensazione spesso di chi non è del settore è che si vada anche un po' a mode, c'è stato un periodo in cui si diceva l'università deve seguire il mondo del lavoro, deve specializzarsi, ci vogliono corsi di laurea specifici per i singoli settori economici. Adesso invece scopriamo che non è così. La sua affermazione è assolutamente corretta. Io penso che in realtà è la risposta che era sbagliata, cioè che bisogna seguire il mondo del lavoro, è vero, però tanto per capirsi, lei sa che io sono stato preside per 18 anni a medicina e presidente della conferenza dei presidi. Allora è esemplare quello che hanno fatto tutte le facoltà mediche d'Italia. Intanto i corsi di infermiere sono tutti uguali, cioè non è che c'è l'infermiere, l'infermierulo, l'infermierino secondo le mode delle persone, sono tutti uguali in tutta Italia, e a un anno dalla laurea triennale lavora il 95% degli studenti, cioè, così per la riabilitazione, per tecnico di laboratorio e così via. Cioè, per capirsi, non è vero che seguendo le mode o le bizzarrie poi in realtà si insegue il mondo del lavoro, esattamente la rovescia, anche perché oggi il mondo del lavoro richiede un aggiornamento per tutta la vita, come dire, le micro specializzazioni si acquisiscono poi nel tempo attraverso l'adattamento, attraverso continuo aggiornamento di quello che si fa. Benissimo, allora speriamo questa volta di avere avere trovato la misura giusta per quanto riguarda il numero e il grado di specializzazione dei corsi universitari. Grazie a Luigi Frati, rettore della Sapienza di Roma. Noi ci fermiamo qua. Un ringraziamento anche a Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Con 24 Mattino ci risentiamo naturalmente domani mattina con la lettura dei giornali. Adesso la parola, la linea passa a Giuliano Ferrara.